droga era padrone, troppo lì violenta, si prendeva quel che ricorda in un respiro grigio. Nuvola che scompare, la città, nuove biciclette veloci, sopra i piedi bruciati, palazzoni e semi interrati, vecchi discorsi inutili su come lavare l'amore, finire per errore, suicidi di massa ormai autorizzati, e cercare per errore, suicidi di massa ormai atomizzati. Su montagne di rifiuti sbocciati, un giorno nucleare ci accoglieva, aprendo gli occhi ci siamo intossicati, rincorrendo i pesci gatti, rinchiusi in bottiglie abbandonate e lanciate per le strade, come un salto nel vuoto, atterrando sui garage, rischiando il silenzio, cadendo oltre un garage. Insetti, specchi fragili, in camere da letto troppo truccate, rispondendo alle sirene che si rincorrono, ci ubriachiamo come due innamorati nella Torino alla moda, e kebab sporchi di sperma, Torino alla moda per immigrati irregolari, Torino alla moda con rotoli di carta igienica rubati. Ci ritroveremo a spegnerci in qualche pub, come lampadine ci bruceremo questi migliori anni 60, e come lampadine ci ritroveremo a spegnerci in qualche pub, e come lampadine ci bruceremo questi migliori anni 60.